Al jihad, lo sforzo per il trionfo della causa di Allah e l'indifferenza alle cose del mondo. Disse il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: chi piange per timore e tremore di Allah non entrerà nell'inferno finché il latte tornerà nel capezzolo della cammella e il polverone della battaglia combattuta per il trionfo della causa di Allah non si mischierà mai con il fumo delle fiamme infernali. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: i prediletti di Allah sono tre: il fedele che di notte sta sveglio per leggere il Corano, quello che fa la carità con tanta segretezza che la sua mano sinistra non sa quel che ha fatto la destra, e quello che in battaglia, benché i suoi compagni d'arme si siano dati alla fuga, affronta il nemico a piè fermo. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: non associare nulla ad Allah, anche se a causa di ciò sarai ucciso o bruciato vivo. Non disobbedire ai tuoi genitori, anche se ti ordinano di abbandonare la tua famiglia e la tua proprietà. Non trascurare le devozioni quotidiane prescritte, poiché chi deliberatamente non le esegue perde la protezione di Allah. Non bere bevanda alcolica, poiché essa è la radice di ogni abominio. Evita qualsiasi forma di disobbedienza, poiché la collera divina è messa in moto dalla disobbedienza. Quando sei nella battaglia, guardati dall'abbandonare la tua posizione, anche se gli altri intorno a te muoiono. Quando la gente, mentre tu sei in mezzo ad essa, è colpita dalla morte, resta dove sei. Spendi nei limiti delle tue possibilità per i tuoi figli e non esitare ad usare la verga per educarli. Educali al timore di Allah. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: in verità le porte del paradiso sono all'ombra delle spade. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: uno sforzo compiuto per il trionfo della causa di Allah, qualunque ne sia l'entità, ha più valore di tutta la terra e tutti i tesori che essa contiene. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: l'aver fatto la guardia, anche per una sola notte, in un posto di frontiera con la miscredenza, per servire la causa di Allah, ha più valore di tutta la terra e di tutti i tesori che essa contiene. Il piede impolverato di chi marcia per il trionfo della causa di Allah non sarà mai lambito dal fuoco dell'inferno. E infine, lo sforzo più nobile al servizio della causa di Allah è la parola di giustizia davanti al tiranno. L'indifferenza alle cose del mondo. Disse il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: l'indifferenza alle cose del mondo non consiste nel considerare illecite cose lecite e non consiste nella dissipazione della ricchezza, ma consiste nel fare più affidamento in ciò che sta nella mano di Allah che in ciò che sta nella tua mano, e che, quando sei sottoposto ad un'afflizione, tu speri che essa duri per il desiderio della ricompensa che aumenta con la sua durata. Disse il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: l'indifferenza alle cose del mondo non consiste nell'andare in giro vestiti con abiti di stoffa grezza e ruvida, né nel mangiare pane secco, bensì nella limitazione della speranza. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: la vita mondana è una maga il cui potere magico è più forte di quello di Harut e Marut. Statene alla larga. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: la vita mondana è la casa di chi non ha casa, la ricchezza di chi non ha ricchezza, e per la vita mondana accumula chi è privo di cervello. disse che Allah lo benedica e la ben gloria, la vita mondana è interdetta ai destinatari del paradiso, mentre il paradiso è interdetto ai destinatari della vita mondana. Disse che Allah lo benedica e la ben gloria. Chi ama la vita mondana si prepara una pessima situazione nella vita futura, mentre chi ama la vita futura si prepara una pessima situazione nella vita mondana. Date la preferenza a ciò che è duraturo e non a ciò che è destinato a perire. Disse: l'amore della vita mondana è la radice di tutti i mali, e se vuoi essermi vicino nel giorno del giudizio, vivi in povertà e sta alla larga dalle riunioni mondane dei ricchi.